succede quasi in ogni primavera. Se non c'è l'inverno, poi verrà la voglia di un amore e poi si spera di vivere una storia in un'altra realtà. Stagione degli amori e dei colori, una leggenda invece tempo fa sembrava fosse fatta per i cuori vuoti dell'amore e privi di bontà. Narrava di farfalle in riva un fiume, un ballo di colori si dirà, più leggere ancora delle piume, danzavano sui fiori, volando in libertà. Sette le farfalle e anche i colori, in questa storia tanto tempo fa. La gioia poi si paga coi dolori, si spezza una gialla, forse dopo morirà. Chiesero le altre con amore della nostra amica che sarà, non possiamo perdere un colore, il buio un'altra vita stare senza ci darà. Dal cielo un urlo dire alle farfalle, se morirete tutte vi darò un posto in alto qui come le stelle, insieme a voi per sempre nel tempo io sarò. Risposero pensando ad un'amica, quando una sorella non c'è più, che senso avrà per noi la nostra vita? Noi la seguiremo ovunque andrà lassù. Piomba il buio in quella primavera, un fulmine la terra spaventò. Passa un'ora e dopo la bufera, il sole con più forza a splendere tornò. Dopo ogni pioggia c'è il sereno, le farfalle adesso sono là a volare nell'arcobaleno, a dirci che l'amore nuova vita ci darà a dirci che nel darsi una vita salverà.